Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Disoccupazione giovanile ai minimi da 4 anni, in calo anche quella generale, ma crescono gli inattivi, PIL in crescita, più vicino alle previsioni del governo. Un giorno alla fine della campagna referendaria, 3 al voto, al centro della scena il sì di Prodi alla riforma che spiazza in parte la minoranza PD. Le trascrizioni delle nozze gay da parte dei sindaci sono valide, decide il Consiglio di Stato, i prefetti non avrebbero potuto annullarle. Centurioni al Colosseo e Risciò in centro, è scaduta ieri l'ordinanza di Tronca che li bloccava a Roma, da oggi possono tornare ad esercitare. La proposta di Bruxelles, paesi lasciati liberi di tagliare l'IVA sugli e-book, sull'e-commerce, stop alle restrizioni per gli acquisti transfrontalieri. Il discorso alla nazione di Putin, non vogliamo nemici ma la difesa dei nostri interessi, pronti a buone relazioni con gli Stati Uniti di Trump. In Siria, da Aleppo rischia di diventare un enorme cimitero, secondo le Nazioni Unite. Da sabato 25.000 persone sono fuggite dalla parte est della città. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Il 349-238-6666 è il numero per gli SMS, per i messaggi su WhatsApp. Effetto Giorno @radio24.it invece è il nostro indirizzo email. In apertura dunque parliamo dei dati sull'occupazione. A ottobre gli occupati in Italia scendono di 30.000 unità, gli inattivi, coloro cioè che non cercano lavoro, salgono di 82.000 e il tasso di disoccupazione è in calo. E questo è lo scenario delineato dall'Istat, che secondo il ministro Poletti conferma una sostanziale stabilità del mercato del lavoro, visto il continuo incremento degli occupati su base annua. Nel mese la flessione riguarda tutte le classi di età, ad eccezione degli ultra cinquantenni. A diminuire sono soprattutto i lavoratori a tempo indeterminato. Il numero di chi ha il posto fisso scende per il secondo mese consecutivo, dopo una crescita durata 6 mesi, ma sull'anno resta in salita, più 178.000. Crescono i dipendenti con contratto a termine, stabili gli indipendenti. Contestualmente il tasso di disoccupazione si attesta all'11,6% e quello degli under 25, i giovanissimi, tocca un minimo da 4 anni al 36,4%. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E importanti di oggi ci sono anche i dati sul prodotto interno lordo. Nel terzo trimestre il PIL, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, dato che conferma la stima iniziale, mentre invece viene rivisto a rialzo la stima sull'anno, un più 1% contro lo 0,9% stimato inizialmente. La crescita acquisita a questo punto, fino a questo punto, ossia se l'ultimo trimestre dell'anno fosse a crescita zero, è del più 0,9%. Meno un giorno al silenzio elettorale, meno 3 al voto per il referendum. Il fronte del sì. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Buongiorno, allora mancano pochi giorni, come dici tu Simone, ma la battaglia referendaria va avanti a toni alti. Il premier Matteo Renzi continua ad attaccare: se vince il no ci teniamo 950 poltrone, i politici avranno tutte le scuse di questo mondo, ma io non sarò della partita. Questa occasione non ricapita domenica, dice Renzi, non si vota su di me o sul governo. Per mandare a casa il governo ci sono le elezioni. E sul sì di Romano Prodi alle riforme interviene anche il ministro degli interni Angelino Alfano. Va bene ogni sì, Prodi ha la sua credibilità, ma se dovesse vincere il no, dice Alfano, Renzi deve andare avanti lo stesso. Altra questione è quella dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che plaude al sì di Prodi ma che continua ad anche attaccare il Movimento 5 Stelle. La politica con un click è mistificazione, dice Napolitano. Non si possono scegliere le persone o dettare gli indirizzi in questo modo. Bisogna reagire all'ondata semplificatrice. Non esiste politica senza professionalità. Altro capitolo è quello del CSM, che apre un'indagine per azione disciplinare a carico del presidente del Tribunale di Bologna, Francesco Caruso, che su Facebook aveva definito la riforma costituzionale fondata su corruzione e clientelismo. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Il fronte del no, Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Fronte del No, Simone, che mostra sicurezza sul voto di domenica? Il centrodestra ragiona allora su quanto accadrà dal 5 dicembre e quale sarà il destino del governo. Se vince il No si va a votare, dice Salvini, ma penso, aggiunge il leader della Lega, che Renzi si dimetterà anche se vincesse il Sì. Vuole liberarsi di tutte le opposizioni, spiega ancora Salvini. Sono sicuro che vinceremo noi, aggiunge Berlusconi, che però avverte, se vince il Sì è meglio andare in un altro paese perché verrebbe meno la democrazia. A far discutere chi si oppone al quesito referendario e poi l'appoggio di Prodi al Sì. Non mi stupisco, dice Meloni, Fratelli d'Italia, perché segue quel filone dell'establishment italiano, europeo e internazionale che è tutto schierato a favore della riforma costituzionale, le grandi banche d'affari, le agenzie di rating. Il Sì di Prodi è invece un po' una sorpresa nella sinistra, contraria a queste riforme, nessun commento da D'Alema. Io non mi turo il naso e voto no, conferma invece Bersani. Il Movimento 5 Stelle infine torna sul voto all'estero, parla di rischi obrogli ed accusa Renzi e Alfano. Non hanno fatto nulla per garantire la regolarità del voto. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque Vincenzo Miglietta, veniamo alla cronaca. È stato arrestato un latitante considerato tra i maggiori ricercati. Uballerinu, così era soprannominato Marcello Pesce, ultimo esponente di Vertice, dell'omonimo clan attivo nella piana di Gioia Tauro e con propaggini in Lombardia e tutto il nord Italia, ancora in fuga. 6 anni è durata la sua latitanza, da quando nel 2010 era riuscito a sfuggire alla cattura, salvato da un SMS in codice, arrivato sul cellulare poco prima dell'irruzione dei carabinieri nel suo appartamento. E in un appartamento al centro di Rosarno è stato sorpreso all'alba dagli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria. Con lui si trovavano 2 persone finite in manette per favoreggiamento. Condannato in appello a 16 anni e 8 mesi di reclusione per associazione mafiosa, è ritenuto dagli investigatori il capo strategico dell'omonima cosca, una delle più potenti dell'intero panorama andranghetista. Anni di latitanza ai suoi trascorsi, però senza trascurare la bella vita, tanto che per scovarlo gli investigatori avevano passato al setaccio non solo le campagne di Rosarno, ma anche bar e locali di Milano e dell'Interland. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo adesso a Saronno per la vicenda delle morti in corsia e ne parliamo con Orlando Mastrillo di Varese News, che torna da noi. Orlando, bentornato, eccoci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, ci aiuti un attimo a fare chiarezza sui numeri di questa inchiesta, perché sui quotidiani e non solo sui quotidiani sta girando di tutto, si parla di indagini su oltre 30 possibili vittime, altri quotidiani hanno scritto su oltre 80 persone, che cosa sappiamo? Allora, sappiamo che la Procura ha acquisito le cartelle cliniche del pronto soccorso di acquisito almeno 80 cartelle cliniche relative appunto alle morti che sono avvenute negli anni scorsi e che portano la firma del dottor Leonardo Cazzaniga. Questo è il numero che attualmente abbiamo potuto verificare. E quindi è su quelle 80 cartelle che si sta lavorando in questo momento per capire se insomma se ci sono sospetti, no, che le morti possano essere avvenute per mano di Cazzaniga. Esattamente, le cartelle sono chiaramente adesso al vaglio della commissione di periti incaricata dalla Procura della Repubblica, quindi una commissione chiaramente di parte, che dovrà comparare queste cartelle e verificare se effettivamente anche in quei casi e in quali casi sono state somministrate dosi letali di anestetici e sedativi. L'altro fronte, Orlando, è quello della responsabilità della struttura dello stesso ospedale, soprattutto la struttura insomma che c'era fino a gennaio di quest'anno, quando poi sono cambiati i vertici. Anche su quel fronte si sta indagando. Sì, come sappiamo gli indagati sono 12, è indagata praticamente l'intera commissione interna che ha giudicato, in base alle denunce dei 2 infermieri, appunto ha giudicato quelle morti che appunto secondo la commissione interna non erano dovute comunque alle dosi che venivano iniettate dal dottor Cazzaniga e ci sono, diciamo, dal direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Busto Arsizio, dell'ex azienda ospedaliera di Busto Arsizio in giù, ci sono insomma tutti i vari livelli che sono coinvolti. Domani mattina ci saranno invece gli interrogatori di convalida del Cazzaniga e di Laura Taroni, mentre invece da sabato inizieranno gli interrogatori di tutte le altre persone coinvolte, quindi degli altri 12 indagati. Ti ringrazio, grazie Orlando Mastrillo di Varese News, quotidiano online, giornale online di Varese, che potete appunto evidentemente trovare su internet, visto che è un giornale online sul quale trovate molti aggiornamenti su questa vicenda. Veniamo alla Commissione Europea, che lancia le sue proposte sull'e-commerce e parla anche di ebook. Novità importanti sul fronte del commercio online in Europa. A proporre la Commissione all'interno di un pacchetto dedicato che ha nei libri elettronici o e-books la parte più innovativa. Bruxelles propone nello specifico di rendere i paesi liberi di tagliare l'IVA per e-book e pubblicazioni digitali allo stesso livello di tassazione ridotta già in vigore per libri e giornali cartacei. L'obiettivo più generale del pacchetto è semplificare il sistema e aggiornarlo per sostenere lo sviluppo dell'e-commerce transfrontaliero in Europa e spingere anche il business delle PMI. Le altre misure prevedono l'obbligo di registrazione delle imprese che vendono online a un unico portale nel proprio paese per pagare l'IVA, tagliando i costi del 95%, grazie al fatto che non dovranno più versare imposte in ciascuno dei paesi dove la vendita materialmente avviene. Nel caso in cui le vendite online all'estero restino sotto i 10.000 euro l'anno, le PMI dovranno pagare l'IVA solo nello stato in cui hanno sede. Una seconda soglia intermedia, sino a 100.000 euro, prevede invece una semplificazione delle regole per il pagamento IVA. È l'ultimo pezzo del puzzle che non solo spingerà le imprese più piccole e le start-up, ma renderà anche i servizi pubblici più efficienti, ha commentato il vicepresidente della commissione ANSIP, Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla decisione del Consiglio di Stato sulla trascrizione delle nozze gay. Il Consiglio di Stato dà torto al ministro dell'Interno Alfano, sostenendo che è illegittimo cancellare le trascrizioni delle nozze gay. Illegittimi dunque i decreti dei prefetti che 2 anni fa annullarono gli atti con cui alcuni sindaci avevano trascritto nei registri dello Stato civile 13 matrimoni contratti all'estero da persone dello stesso sesso. La vicenda risale appunto al 2014, quando alcune città, in attesa che una legge definisse la questione, decisero di agire autonomamente. Il sindaco Giuliano Pisapia firmò in un colpo solo 12 trascrizioni a favore di coppie che avevano deciso di sposarsi in paesi stranieri, dove le nozze gay erano già consentite. Così fece anche il sindaco di Udine, una sfida al ministro Alfano, che reagì imponendo ai prefetti la cancellazione d'imperio. Ma adesso è il Consiglio di Stato a dichiarare legittime quelle trascrizioni e dunque illegittime quelle cancellazioni per difetto di competenza. Solo il Consiglio dei Ministri, infatti, e non anche il prefetto, può esaminare la legittimità degli atti emessi dai sindaci, una questione oggi comunque in parte superata dalla legge sulle unioni civili, che prevede la trascrizione su richiesta degli interessati nel nuovo registro delle unioni civili di ogni comune. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Andiamo all'estero adesso, iniziando dal discorso alla nazione del presidente russo Vladimir Putin. Noi con gli Stati Uniti contro il terrorismo vero. Vladimir Putin gioca la carta Donald Trump nel discorso al Parlamento russo, rivendica l'impegno delle truppe di Mosca in Siria. Non, dice, stampelle del regime di Assad, ma guardiani della sicurezza globale, anche di quella dell'Occidente. Il leader russo alterna come sempre carote e bastone, si offre al dialogo e ricorda che l'aviazione e la marina russa hanno dimostrato di essere efficaci anche lontano dalle basi permanenti. Anticipando una riflessione pubblica la vigilia del centenario della rivoluzione, rivendica la pace civile raggiunta nel paese contro la ferocia del passato, facendo un chiaro riferimento agli anni 90, quelli del capitalismo selvaggio, che poi ha prodotto il consenso alla democrazia autoritaria di oggi. Stoccata per l'Europa sul tema della libertà di parola, la Russia ha detto è stata accusata di imporre la censura sui suoi media, ma alcune nostre controparti stanno facendo proprio questo. Silenzio invece sul conflitto nel Donbass, dove l'assenza di parole non promette nulla di buono. Kiev ha dato il via a una serie di esercitazioni missilistiche. Mosca ha immediatamente spostato le navi lungo la costa occidentale della penisola di Crimea. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Ci spostiamo in Siria, scenario nel quale, come sapete, stanno agendo anche i russi. La situazione ad Aleppo, sentiamo. Anche oggi le forze leali al presidente Bashar al-Assad hanno bombardato i quartieri est di Aleppo, da cui secondo l'ONU lo scorso fine settimana sono riusciti a fuggire 25.000 dei 200.000 abitanti originariamente intrappolati nell'area. Sfidando il fuoco aperto non si sa bene da chi, alcuni dicono le forze governative siriane, altri i miliziani antigovernativi rifugiati in quei quartieri, in cui però sono anche asserragliati gli estremisti del Fu Fronte di Al-Nusra, fuoriuscito da Al-Qaeda l'estate scorsa. Della necessità di un cessate il fuoco parlano tutti. L'ONU discuterà una nuova risoluzione. Turchia e Russia anticipano che sono d'accordo. Anzi, Mosca si spinge anche ad affermare che non ci sono più ostacoli alle forniture di aiuti umanitari per Aleppo. Quel che manca è però realisticamente un'intesa sul futuro di Bashar al-Assad e della Siria. A chilometri di distanza, altre centinaia di migliaia di civili vivono un assedio simile. A Mosul, in Iraq, è ormai alla sesta settimana l'offensiva per la liberazione della città dal controllo dell'ISIS. Manca l'acqua e si moltiplicano le notizie di esecuzioni sommarie per qualunque atto considerato di insubordinazione. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di cinema, o meglio, parliamo di un film TV. Vuole essere così gentile da spiegarmi che succede? Anche voi avete una gerarchia. Sa benissimo, dunque, cos'è un ordine. Gli ordini me li impone prima di tutto la mia coscienza, colonnello. Viene presentato oggi Francesco, il Papa della Gente, film TV diretto da Daniele Lucchetti, in onda il 7 e l'8 su Canale 5, un anno dopo la versione cinematografica, la serie che racconta la storia umana di Jorge Bergoglio da Buenos Aires, prima dell'elezione al soglio pontificio. Radio 24, Daniele Lucchetti ha spiegato come è nato il racconto della biografia del Papa. Mi sembrava interessante come raccontare questo film come se fosse un romanzo di formazione. All'inizio ho cominciato leggendo molte biografie che erano state fatte, però tutte molto frettolosamente, subito dopo l'elezione. E queste biografie avevano larghe parti di copia e incolla, errori che si ripetevano e sostanzialmente non mi offrivano quasi niente se non alcune informazioni di massima sulla sua vita. Ho cominciato ad avere delle informazioni più interessanti quando mi sono avvicinato a chi invece non era stato biografo ma l'aveva conosciuto personalmente, e lì ho avuto dei racconti che mi hanno fatto aprire degli spiragli sul carattere, su alcuni eventi precisi, su quelli che sono stati i grandi nodi della sua vita, quindi non so, le persone perdute durante gli anni della dittatura, le amicizie, il modo con cui si rapportava con gli altri, e quindi mi ha permesso di fare una storia che, al contrario dei film Santino, in cui tutto è volto a dimostrare che fin da bambino c'era una predisposizione, c'era l'evocazione, eccetera, ho avuto la fortuna di raccontare una persona che da una vita qualunque, di prete qualunque, diciamo, arriva in un punto molto molto alto, che è sempre qualcosa che comunica emozione allo spettatore. Io non sono cattolico, però questa storia mi emoziona perché, come tutte quante le storie di ascesa verso un desiderio e verso il bene comune, è qualcosa che mi riguarda da vicino proprio come cittadino. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Inizieremo da Roma, dove, come avete sentito nei titoli, c'è un rischio di ritorno dei centurioni, dei gladiatori davanti al Colosseo per farsi fare le foto. Sentiamo. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dei dati dell'Istat sulla disoccupazione e sul PIL, abbiamo parlato del referendum, siamo agli ultimi colpi di campagna referendaria, abbiamo parlato delle trascrizioni delle nozze gay e abbiamo parlato anche di ebook e della proposta di Bruxelles, i paesi lasciati liberi di tagliare l'IVA. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia. Come già vi dicevo prima del traffico, iniziamo da Roma, dove è scaduta ieri l'ordinanza che era stata emessa dal prefetto Tronca, commissario della capitale, che di fatto bloccava i centurioni, i gladiatori che erano intorno al Colosseo, intorno ad altre zone archeologiche, si facevano fotografare a pagamento, spesso anche con un atteggiamento un po' aggressivo nei confronti dei turisti. A volte ci sono state anche segnalazioni, come dire, se non di violenze nei confronti delle donne, comunque di un atteggiamento assai poco rispettoso. Siamo in linea con Sabrina Alfonsi, che è presidente del municipio primo di Roma. Buongiorno Alfonsi, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, innanzitutto ci faccia da cronista, sono già tornati intorno al Colosseo, intorno alle zone archeologiche oppure no? Sono già tornati, me lo dicono, su via di San Gregorio, e quindi vuol dire l'avvicinamento verso il Colosseo. Io non sono andata personalmente, quindi questo è quello che mi stanno raccontando. Il tema è molto semplice, questa non può essere regolamentata solo da ordinanze che ogni volta che scadono chi è in quel momento chi dovrebbe rifare l'ordinanza ci pensa, per cui rimangono dei vuoti comunque normativi. Perché poi, mi scusi Alfonsi, era già successo in luglio che era scaduta l'ordinanza, erano tornati, se non sbaglio, in luglio o in giugno, no? Era scaduta l'ordinanza, erano tornati, poi è stata rinnovata l'ordinanza. Assolutamente, per di più le ordinanze hanno un tempo, rischiamo addirittura che se la reiteriamo più di varie volte qualcuno la potrebbe ricorrere al TAR. Non sono ricorsi al TAR perché, voglio dire, non sono delle categorie che hanno gli avvocati, eccetera, ma questo ce lo aspettiamo presso. E lavorano anche in nero, quindi non è nemmeno troppo facile, ricorrere al TAR, diciamo. Esattamente, però serve una normativa stringente. Tutto quello che è il nostro grande patrimonio non può essere messo così alla berlina da situazioni devastanti in questa maniera. Quindi io penso che noi abbiamo un tema. Lei ci ha parlato con l'amministrazione, intendo, o col sindaco o con l'assessore di questa cosa qua? Guardi, io non voglio essere, perché poi alla fine diventerò polemica. Io con la sindaca non sono mai riuscita ad avere un incontro a due sui temi del territorio del primo municipio. A questo punto comincio a pensare che la sindaca non la fa gli incontri né con me né con la Del Bello, sicuramente se lo fa con gli altri presidenti non lo so. Ci sono tutte le lettere che noi abbiamo mandato, sono assolutamente tutte prive di risposta tranne quelle che abbiamo mandato a Frongia. Quindi questo è il tema, sì. Non si riesce a fare un ragionamento. Qui invece va fatto un ragionamento, anche perché tutto collegato anche rispetto al tema della Bolkestein, al tema dell'abusivismo, al tema degli artisti di strada e al tema della nuova scia emanata col decreto legge dal governo, che consente di estendere la tutela dei monumenti e quindi nessuna attività intorno ai monumenti. Io penso che noi dobbiamo mettere insieme tutte queste categorie, perché io, che sono una che difendo i veri artisti di strada, perché penso che in tutte le capitali europee, ma non solo, abbiamo questa bellezza. Vabbè, chiaro. Ma sì, ma sappiamo benissimo, abbiamo capito benissimo, lo sappiamo. Lo sappiamo benissimo che un centurione, uno trasvestito da centurione, da gladiatore, non è evidentemente un artista di strada. Non sono artisti quelli che. Senta, no, Alfonsi, però molto brevemente, mi scusi. Quindi non avete ricevuto alcuna rassicurazione sul fatto che questa ordinanza. No, esatto, né che viene rifirmata l'ordinanza, né tantomeno che ci sia un atto, una delibera proposta dalla maggioranza in Campidoglio per risolvere questa questione. Vabbè, vedremo cosa succederà nelle prossime ore, se si muoverà l'amministrazione comunale, che in parte già parla della possibilità di inserire tutto questo nel nuovo regolamento di polizia municipale. Abbiamo cercato l'assessore, in questi giorni non è stato disponibile, magari vedremo se lo troveremo nei prossimi giorni, se ci sarà tempo e se la notizia riteniamo che possa valere la pena. Giorgio Ciconali, dirigente del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica di Milano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. E dunque il nostro giro per l'Italia si sposta a Milano, dove c'è una seconda studentessa morta di meningite alla statale. Ci dà un quadro della situazione? Nel giro di pochi mesi, naturalmente, non è una cosa, come dire, avvenuta negli Purtroppo, ultimi giorni. Certo, era successo a luglio il primo caso, è successo ieri l'altro il secondo, sono entrambe studentesse di 24 anni ed entrambe frequentavano appunto la facoltà di chimica. Ecco, la particolarità di questa faccenda è che entrambe hanno avuto appunto questa forma veramente devastante, anche perché nel giro, entrate in pronto soccorso e nel giro di due ore purtroppo sono decedute, insomma. Ecco, per cui una storia molto triste. Una storia molto triste, naturalmente, e l'impossibilità dunque di salvarle, cioè un fulminante come meningite. Assolutamente, questa di ieri l'altro, di martedì, è stata una cosa anche molto strana, perché è entrata in codice verde per una sindrome gastrointestinale acuta, per cui gli avevano dato quelle medicine che si danno di solito per stare un po' meglio, e lei stava un po' meglio, ma questo qui alle 7:30 del mattino, alle 9 era morta, insomma, ecco, nonostante tentativi ripetuti di rianimazione, nonostante l'intervento dell'anestesista, ecco, nonostante tutto quello che si doveva fare e nonostante l'ospedale fosse di guardia, cioè voglio dire un ospedale di prima scelta. È lo stesso ceppo? Questo non lo sappiamo ancora, nel senso che è evidente che sarà molto molto interessante avere questo dato, ma in questo momento non siamo ancora in grado di avere questo dato. È scattato un sistema di profilassi, immagino, per tutte, per tutte le persone che hanno frequentato, immagino, non solo quelle aule o solo quelle aule? Dunque, la problematica è abbastanza complessa, perché quando poi si tratta di 24enni, evidentemente c'è una vita... chiamiamola o lavorativa o come in questo caso universitaria, e poi c'è anche una vita molto intensa extra, per cui i nostri adesso operatori sono da una parte, in questo momento sono proprio in università che stanno tenendo incontri con gli studenti che ne hanno già profilassati, stamattina hanno incontrato 150 persone, ne hanno fatto la profilassi già 80. E poi c'è da fare tutto l'altro campo, ecco, nel senso di andare a verificare anche che cosa faceva al di là dell'università e che tipo di contatti stretti e prolungati, ecco. Bisogna proprio insistere sulla parola stretto e prolungato, perché non è che basti frequentare una lezione dove c'era questa ragazza per dover farla profilassi. Ecco, uno, questo è importante, mi scusi Cicconali, ce lo spieghi, perché se no rischiamo in tutti i nostri ascoltatori milanesi, no, certo, di scatenare il panico. Non è che se passo nello stesso autobus dove è stata questa ragazza rischio di prenderla meningite. No, io devo averci parlato, devo aver avuto una frequentazione, sulle goccioline che sputacchiamo continuamente nelle nostre attività, ecco, che sono quelle interessanti, per questo motivo bisogna averne ricevute anche tante, per cui ecco, diciamo, non basta la frequentazione di un ambiente, ma sicuramente ci vuole una frequentazione prolungata e ravvicinata, non a caso stamattina decine di studenti, quando hanno capito che non era il loro caso, nel senso che questa ragazza manco sapevano chi fosse, non hanno fatto la profilassi. Allora, la ringrazio. Grazie a Giorgio Cicconali, dirigente del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica di Milano, per averci dato questi chiarimenti. Vedremo cosa succederà anche su questo fronte nelle prossime ore. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire come sempre che cosa succede sui mercati, come sempre facciamo a quest'ora, e poi torneremo al nostro giro per l'Italia e ci occuperemo di una storia che, devo dire la verità, ci ha incuriosito dal punto di vista anche giuridico. Un gruppo di cittadini di un quartiere ha vinto una battaglia per far riconoscere lo stalking di quartiere da parte di padre, madre e figlio, che pareva che ne facessero di tutti i colori. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto, metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: disoccupazione giovanile ai minimi da 4 anni, in calo anche quella generale, ma crescono gli inattivi, il PIL è in crescita, più vicino alle previsioni del governo. Un giorno alla fine della campagna referendaria e 3 al voto, al centro della scena il CD Prodi alla riforma che spiazza in parte la minoranza del PD. Le trascrizioni delle nozze gay da parte dei sindaci sono valide, decide il Consiglio di Stato, i prefetti non avrebbero potuto annullarle. La proposta di Bruxelles, paesi lasciati liberi di tagliare l'IVA sugli ebook, sull'e-commerce stoppa le restrizioni per gli acquisti transfrontalieri. Alla borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo. Beh, se avete dei vicini che danno fastidio un po' a tutto il quartiere o a un pezzo della vostra strada o al vostro palazzo, a quanto pare, secondo la Procura di Ferrara, a questo punto avete un'arma in più. perché la Procura di Ferrara ha chiuso le indagini su una famiglia, madre, padre e figlio, con l'ipotesi di reato di stalking di quartiere. Noi siamo in linea con Rita Volpi, che è residente di Via Rambaldi, che è questa via di Ferrara, nella quale avveniva tutto questo. Il contatto con la signora Volpi ce l'hanno dato i colleghi di Estense.com, un giornale locale che ringraziamo. Allora, signora Volpi, buongiorno innanzitutto, ma che cosa facevano questi tre? Buongiorno innanzitutto. Loro da anni ci perseguitavano, nel senso che io sono una di quelle, ad esempio, che quest'anno, nel corso dell'anno 2016, ha subito percosse, ho fatto denuncia per maltrattamento e ci sono state anche 3 settimane di prognosi. Che cosa facevano? Di tutto e di più. Vogliono imporre la loro legge, che è solamente loro, a tutto il vicinato. Le persone anziane non potevano uscire nei cortili perché loro le ricacciavano dentro con le parolacce. Queste parolacce venivano anche pronunciate dal figlio minore, si calavano, il padre si cala i pantaloni, mostrava i genitali, e questo è il minimo, voglio dire, perché siamo stati per molto tempo anche disturbati, se così si può dire, da un allevamento che loro tenevano, che la stampa ha chiamato l'allevamento lager, di tanti conigli, galline. Queste galline, i conigli venivano scoiati vivi, le galline venivano anche ammazzate, non secondo i canoni della, i posti dall'USL, ma sbattute contro il muro. Teste di conigli appese, uccelli appesi ai tronchi, vivi, impalati, eccetera, eccetera. Che bel quadretto! Un bel quadretto! Un bel quadretto. E a questo punto si procede per stalking di quartiere? Sì, cioè è arrivata stamattina la notifica da parte della procura, che è stata riconosciuta appunto nei confronti di 4 abitanti della via, atti persecutori di queste persone nei nostri confronti, e di questo noi siamo finalmente contenti, consapevoli del fatto che sarà sicuramente un iter molto lungo, anche se il tentativo è stato quello appunto di accorpare le numerose denunce a carico di questa famiglia. Ma mi dica, ma questi vivono ancora là oppure no? No, vivono qua, e come? Cioè, io ce li ho a contatto gomito a gomito, siamo separati solo da una recinzione metallica e continuano a fare le loro... Continuano a fare le loro cose. Sì, adesso è inverno, quindi in modo più limitato. Poi il figlio attualmente non c'è, diciamo che purtroppo il figlio è anche il più scatenato. È diventato. Allora, la ringrazio. Grazie Rita Volpi, residente di Via Rambaldi, per essere stata con noi. Saluto adesso, per chiudere questa puntata di Effetto Giorno, l'assessore agricoltura della Regione Veneto, che torna da noi, Giuseppe Pan. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i suoi radioascoltatori, buongiorno. Per parlare di cosa? Beh, ce ne siamo occupati all'inizio, alla fine dell'estate, diciamo così, all'inizio dell'autunno, di questo problema delle cimici che avevano invaso una parte del nord-est. Ebbene, adesso si iniziano a fare un po' di conti sui danni che hanno provocato all'agricoltura, assessore, no? Coldiretti parla di 30 milioni di euro, e c'è un problema in particolare che riguarda la vendemmia, ho capito bene? Ormai la vendemmia è finita, e comunque questo problema della cimice asiatica probabilmente lo rivedremo il prossimo anno. Adesso è andata in letargo, è arrivato l'inverno. Ecco, ricordo a tutti che comunque questo insetto è arrivato nel 2012 coi container dalla Cina, e quindi l'effetto della globalizzazione di questi animali, che anche di tante malattie che purtroppo ogni anno arrivano sui nostri territori, e non c'è solo la cimice, ci sono anche tanti altri, è un continuo combattere e trovare delle soluzioni. Noi abbiamo visto i primi danni dal 2012 nel 2015, e confermo anch'io che i dati sono preoccupanti. Adesso vabbè, assessore, però dico, insomma, può arrivare, una cimice può arrivare in qualunque altro modo, cioè anche un pacchetto, non è che la globalizzazione porta la cimice, insomma. È chiaro, no? Nel senso dei trasporti, ecco, la globalizzazione dei trasporti che porta dall'America, a volte dal Sud America, arrivano insetti anche dal Giappone, abbiamo sui ciliegi lo stesso problema con un altro insetto, ma noi in questo senso abbiamo comunque cominciato con l'Università di Padova, quindi è la novità, da giugno abbiamo instaurato un protocollo di monitoraggio e stiamo mettendo giù un progetto appunto per lo studio e nello stesso tempo della popolazione di questo insetto, ma nello stesso tempo anche per trovare le soluzioni per combatterlo. Ma c'è qualche idea di contromisura, assessore? In questi casi l'entomologia segue dei percorsi ben certi. Prima bisogna capire quali siano gli stati di sviluppo di questo insetto e quindi in modo da capire in quale fase di sviluppo sia appunto possibile poi attaccarlo. Poi ci sono diversi metodi, c'è il metodo chimico che sembrerebbe che gli insetticidi a ora non gli facciano nulla, non abbiamo ancora trovato nessun tipo di insetticida, lo stanno studiando, però è chiaro che non possiamo buttare insetticidi dappertutto, eccetera. Stiamo studiando invece dei metodi biologici che sono comunque quelli che vanno a trovare un competitore naturale che già in Cina c'è, però stiamo studiando l'importazione in modo che poi possa essere approvato, perché è chiaro che abbiamo stati attenti che magari portando qui un competitore della cimice non ci portiamo a casa un altro problema. Esatto. Bisogna starci discretamente attenti. Con l'università, col dipartimento Daphne e di entomologia dell'Università di Padova ci state lavorando sopra. Allora, assessore, io la ringrazio. Grazie Giuseppe Pana, assessore dell'agricoltura della Regione Veneto. Ci fermiamo, c'è il traffico. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.